Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Preston, nel Lancashire, una contea nel nord-ovest dell'Inghilterra, il XIX secolo si è affacciato con insolita vivacità. Nel giro di pochi anni, nella contea si sono moltiplicate le nascite di fabbriche per la lavorazione tessile, che hanno mostrato ai cittadini in breve tempo i due volti della stessa medaglia, quella della rivoluzione industriale. Lavoro e abbruttimento sono divisi da un sottilissimo filo, quando le condizioni dei lavoratori in fabbrica non sono garantite da nulla e da nessuno. Mentre tutto il Lancashire diventa la zona di maggiore sviluppo dell'industria tessile inglese, la città di Preston si trasforma in uno dei luoghi dove la presa di coscienza dei lavoratori diventa più evidente, tanto da meritarsi la visita di Karl Marx intorno al 1850 e di Charles Dickens durante la stesura del romanzo Tempi difficili. E sono tempi davvero difficili, quelli che nel 1842 portano i lavoratori a manifestare contro le durissime condizioni di vita della fabbrica. Durante la manifestazione, le guardie, sostenute dallo spietato Riot Act, che vietava gli assembramenti di più di 12 persone, lasciando mano libera alla polizia di sparare sui dimostranti, uccidono 4 operai. 4 poveri lavoratori che per pochi scellini lavoravano dalle 12 alle 16 ore al giorno, senza alcuna garanzia, alcun futuro, senza speranze. I fatti del 1842 non sono isolati. Intorno alla metà del 1800 l'Inghilterra sembra essere un enorme opificio che produce infelicità, miseria, abbruttimento, alcolismo, ingiustizia. La rassegnazione è la prima soluzione dei milioni di lavoratori inglesi, seguita dalla ribellione. Ma esiste anche una terza opzione per scampare alle grigie città industriali inglesi. È un'opzione in qualche modo terrorizzante, ma anche piena di speranze. Emigrare in America. La grande nave che dal porto di Liverpool e attraverso il mare d'Irlanda si dirige verso gli Stati Uniti conta centinaia di passeggeri, fra essi una giovane coppia che sfugge non solo agli sconvolgimenti portati dalla rivoluzione industriale, ma anche alla persecuzione religiosa. Nell'Inghilterra anglicana non c'è spazio per la loro fede, quella mormone. Trovare dei mormoni in Inghilterra è piuttosto atipico, eppure dopo lo sviluppo della religione dei santi degli ultimi giorni, alcuni predicatori si recarono in Inghilterra per fare proseliti. Anche a Preston, dove Maximilian Parker e la sua giovane moglie Anne si convertono senza incertezze. Così come anni dopo, senza incertezze e per amore della loro fede, decidono di intraprendere il grande viaggio verso il nuovo mondo. Giunti a Ellis Island, Maximilian ed Anne conoscono già la loro meta, lo Utah. La vasta regione nel far west americano. Hanno saputo dai loro compagni che è questo il luogo dove i mormoni hanno fondato la loro comunità dopo le persecuzioni e il lungo viaggio di 2000 chilometri che hanno compiuto in uno degli inverni più freddi del secolo, attraversando il Nebraska e lo Iowa, per giungere in questa terra lontana da tutto, soprattutto dal male peggiore. Un luogo, come disse il capo della spedizione Brigham Young, dove il diavolo non può venire a tirarci fuori. Oggi i viaggiatori che arrivano a Beaver, a sud di Salt Lake City, possono scorgere già a molti chilometri di distanza la gigantesca B che accoglie i turisti. Ma quando i giovani sposi Parker raggiungono dopo mesi di un viaggio lento e faticoso l'insediamento, il piccolo paese ha solo pochissimi anni di vita. I pionieri mormoni hanno costruito solo qualche casa e c'è ancora molto da fare in questa zona meravigliosa circondata dalle montagne. In questo piccolo paese i coniugi Parker iniziano la loro nuova vita che viene presto benedetta nell'aprile 1866 con la nascita del primo dei loro 13 figli, Robert Leroy. Il suo nome non sembra dire niente a chi lo ascolta, ma la verità è che da questa pia e timorata coppia di mormoni che per sfuggire alla durezza del lavoro in fabbrica e alle persecuzioni religiose ha affrontato un calvario dall'Inghilterra agli Stati Uniti d'America, nasce quello che verrà considerato uno dei più famosi banditi d'America, conosciuto dappertutto con il nome di Butch Cassidy. Butch Cassidy. I primi anni di infanzia di Butch, come viene chiamato in famiglia, sono stati quelli di un'infanzia molto felice e normale, in una casa di pionieri mormoni con genitori che si occupavano di lui e 12 fra fratelli e sorelle. Il padre era un uomo di buon cuore e di buon carattere, la madre molto religiosa, che gli insegnava i sani principi cristiani. Stavano bene, lavoravano sodo e la vita per Butch è stata normale. La descrizione che fa Bill Batson, il pronipote di Butch per parte di sua sorella minore Lula, dell'infanzia dello zio, è senz'altro realistica. Forse grazie alle incrollabili regole religiose dei genitori, Butch, o meglio Roy, come viene chiamato in famiglia, cresce in un clima sano e affettuoso e questo, come vedremo, rende Roy diverso dai criminali del suo tempo. I love that girl with all of my mind. Forty days and 40 nights since my baby broke my heart. Dopo qualche anno, i coniugi Parker si trasferiscono poco più a est, nel ranch di Circleville, dove Roy inizia a lavorare appena raggiunge l'adolescenza. Il ranch si trova in mezzo a una corona di montagne, alte, bellissime, e per Roy piene di sentieri da percorrere nella foresta sperando di incontrare un puma e sentirsi grande, coraggioso. E mentre continuano a nascere fratelli e sorelle, Roy scopre la libertà, la natura. Tutte cose che i suoi pii genitori, con un'infanzia trascorsa fra le fabbriche inglesi e le costruzioni della povertà, non avevano mai potuto sperimentare. Rassicurato dall'amore materno, ma anche dal poco controllo che una donna costantemente incinta o intenta ad accudire una prole numerosa può assicurare al figlio maggiore, il giovane Roy conosce il mondo, o almeno quella piccola fetta chiamata Utah. Giovane ed entusiasta Pinocchio campagnolo, forte del suo buon umore e della battuta sempre pronta, Roy cavalca i cavalli, bada alle mandrie, impara la vita. Ma come ogni buon Pinocchio che si rispetti, anche Roy incontra il suo lucignolo. Talvolta, a gironzolare intorno al ranch Circleville, c'è un losco figuro, un ranciero che a volte si improvvisa ladro di cavalli e a volte fa sparire qualche mucca, Mike Cassidy. È un momento di difficoltà per la famiglia Parker. Maximilian perde parte della sua terra e la madre ha da fare con l'ennesimo bambino, forse per sfida, forse per sventatezza. Il giovane Parker sceglie non molto saggiamente Mike Cassidy come sua nuova figura di riferimento, il suo lucignolo da guardare con ammirazione e da seguire in tutte le avventure. Laggiù, Pinocchio e lucignolo, non sento le vostre voci! L'uomo nasca ricco povero. L'uomo nasca ricco povero. È obbligato in questo mondo a lavorare. È obbligato in questo mondo a lavorare. Beh, lucignolo fuori! Del resto Roy aveva già avuto le sue prime esperienze non proprio edificanti. A 13 anni entra in un negozio chiuso dove si serve direttamente rubando un pantalone jeans, anche se lascia un biglietto in cui promette di tornare presto a pagarlo, cosa che anche se non lo farà mai mostra i primi segni di una natura fondamentalmente buona, ma come dire, con un gusto per il proibito alquanto accentuato. Fatto sta che il fascino che Roy ha per lucignolo, alias Mike Cassidy, cresce nei mesi fino a portare Roy ad assumere il cognome dell'amico. Anche se questa scelta può essere interpretata come una forma di rispetto nei confronti del buon nome dei suoi genitori, timorati di Dio. La rinuncia al suo vero cognome è un estremo tentativo di proteggere i suoi parenti dall'onta di avere un figliolo che ha smarrito la retta via. Riguardo al nome, invece, bastano pochi mesi al servizio di un macellaio, in inglese Butcher, per risolvere la questione. Da quel momento Robert Leroy Parker diventa Butch Cassidy. E insieme alla nuova identità inizia per lui una nuova vita, come se fosse stato partorito di nuovo. Cancellato il mondo dei pionieri mormoni, Butch Cassidy sceglie quello che lo porta su un sentiero molto diverso da quello percorso anni prima dai suoi genitori, ma non meno irto di pericoli e fatiche. Il sentiero dei fuorilegge. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Il sentiero dei fuorilegge percorso in lungo e in largo da Butch Cassidy non è solo un'espressione iperbolica, ma un vero e proprio tragitto che si snoda fra il Messico e il Montana, passando attraverso lo stato dello Utah. Un sentiero non segnalato dalle cartine, ma che assicura luoghi in cui è facile potersi nascondere, dove qua e là esistono ranch compiacenti che ingaggiano per alcuni periodi i cowboy che entrano ed escono dalla legge. Gente come Butch, che seguendo le gesta del suo primo mentore, si serve, a seconda delle necessità, di cavalli e vacche come una volta ha fatto con i jeans. Ma ben presto i colpi di Butch perdono ogni residuo di innocenza per diventare quelli di un professionista. La rapina alla banca di Telluride per Butch Cassidy fu l'inizio della carriera come fuorilegge, quella in cui superò il confine fra l'essere un semplice ladruncolo di paese e quella di rapinatore in fuga. Il pronipote di Butch non fa sconti al suo bisavolo. E forse neanche Butch, dopo la rapina a Telluride, fa più sconti a se stesso. Per la rapina alla San Miguel Valley Bank ha messo su una piccola banda con due cowboy incontrati sul suo cammino, fra cui Matthew Warner, che nel suo libro Last of the Bandit Riders, Gli ultimi banditi, racconta la vita sempre allerta di chi, dopo una rapina, sceglie il sentiero dei fuorilegge. Dormivamo sempre intorno al fuoco. Intorno solo alberi e rocce che ci difendevano. Le pistole, sempre cariche accanto a noi, perché se fossimo stati scoperti, dovevamo sparare in pochissimo tempo. In mezzo all'erba, mille piccoli fiorellini gialli sembrano salutare dai campi del piccolo ranch di Blue Creek il loro nuovo padrone. La rapina a Telluride ha fruttato ben $21,000 e Butch sceglie di comprare una piccola proprietà che strategicamente si trova vicino a Hole in the Wall, nel bel mezzo del Wyoming, il nascondiglio dei nascondigli, un luogo in mezzo alle montagne impossibile da trovare se non lo si conosce. Nonostante la scelta non proprio innocente, Butch tenta di tornare sulla retta via, uno schema ricorrente nella sua vita. Di tanto in tanto, un ritorno alle origini, ai sani precetti dei suoi genitori mormoni e subito dopo il fascino del proibito, il richiamo della natura, dell'azzardo, del rompere le regole. Infatti, l'acquisto del ranch non impedisce a Butch di finire in prigione per furto di cavalli. Ma 18 mesi dietro le sbarre lo convincono ad avere qualcosa in più, di non essere un semplice fuorilegge, ma una sorta di Robin Hood del West, che ruba cavalli e mandrie agli spietati latifondisti per aiutare i piccoli proprietari come un tempo era suo padre, rovinato proprio da coloro che Butch considera suoi nemici. Appena uscito dalla prigione, quindi, Butch decide di fare sul serio. Inizia a cercare quelli che saranno i suoi compagni e lo fa con molta cura. Quelli che sceglie saranno una sorta di elite fra i cowboy fuorilegge. Elsie Lay, l'amico più caro, Harvey Kid Curry Logan, Ben Kilpatrick, Will News Carver e George Curry. In mezzo a tutti loro c'è anche una donna, Laura Bullion. Laura ha solo 15 anni quando incontra Butch, Carver e Kilpatrick. Suo padre è un fuorilegge, è abituata a quella gente, alle pistole, a una vita sempre sul filo del rasoio. Si mette, lei così giovane, con News Carver. Ma il grande amore della sua vita, se le donne fuorilegge possono avere un grande amore come una qualsiasi eroina letteraria, è Ben Kilpatrick, che seguirà per anni e anni fra una rapina e un bordello del West, dove in mancanza di un lavoro migliore si prostituisce. Il gruppo si sceglie un nome che non lascia dubbi, The Wild Bunch, il mucchio selvaggio. In realtà, come ci spiega lo storico Daniel Buck, il mucchio non è esattamente un mucchio. Il mucchio selvaggio era più una confederazione che una vera e propria banda, una specie di associazione libera. Non capitava quasi mai che fossero tutti insieme per la stessa rapina durante i 10 anni in cui operarono insieme e in fondo non furono mai chiamati il mucchio selvaggio. I giornali li chiamavano il sindacato della rapina al treno o la banda di Butch. È stato solo nel 900 con i Pinkerton che il nome fece presa, ma per quell'epoca la banda si era separata. Ma questi uomini non sono solo dei selvaggi fuori legge. A modo loro evidentemente hanno fascino e Butch è fra quelli che piacciono di più. Che tipo d'uomo era Butch Cassidy? È una domanda a cui si può dare una facile risposta. Era un bravo ragazzo, considerando che era un fuorilegge o comunque uno non molto ligio. Quasi tutti lo amavano e dicevano cose buone su di lui. Aveva un fantastico senso dell'umorismo ed era un non violento, per quanto fosse possibile esserlo per un fuorilegge. Descrivendo Butch Cassidy, lo storico Daniel Buck definisce per la prima volta quella che in modo quasi mitico diventa la leggenda del bandito Butch, la non violenza. Anche se con l'approfondirsi degli studi sulla sua vita, questa tesi forse non è interamente dimostrabile, di sicuro si appoggia su basi attendibili. A Butch non piaceva sparare, non piaceva uccidere e soprattutto credeva nelle regole anche quando si trattava di svaligiare le banche. Non si può essere un affezionato figlio di mormoni se non si conserva nel profondo di se stessi quegli insegnamenti di rettitudine e di responsabilità nei confronti dei propri peccati e anche di aiuto nei confronti dei membri della propria comunità. Ed è forse quest'ultimo concetto che spinge Butch a compiere la sua seconda rapina a Montpellier nel 1896. Quello che mi piace a proposito della rapina alla banca di Montpellier è che dimostra la lealtà che Butch aveva nei confronti dei suoi amici. Forse il pronipote di Butch ci mette un po' di romanticismo nella sua interpretazione della rapina, ma è anche vero che Butch decide di svaligiare la banca di Montpellier per racimolare i soldi necessari a pagare l'avvocato della difesa per il suo amico Matt Warner, finito in prigione. La rapina è all'insegna di quello che diventerà lo stile del mucchio selvaggio, un piano ben congegnato e poi precisione e velocità. Concluso il furto, Butch e i suoi amici ritornano sul sentiero dei fuorilegge. Sono settimane trascorse sotto le stelle della notte, di nuovo vicino al fuoco, di nuovo celati nelle grotte, fra gli anfratti. Se la cosa può sembrare angosciosa, bisogna immaginare tre giovani di appena 30 anni che in quel momento stanno provando l'afrodisiaco più forte di tutti, il denaro, che al fuoco del falò appare ancora più magico e potente del solito. Nella libertà del Grand Canyon, i tre ragazzi sognano la ricchezza e cavalcate senza fine che non prevedono polizia, leggi e costrizioni. E se il pacchetto fornisce anche qualche dormita all'addiaccio, in fondo cosa c'è di più bello che vivere abbracciati alla natura misericordiosa? Dopo la rapina a Montpellier, però, Butch sente la necessità di fare affidamento su un gruppo più ampio e focalizzato. Si cerca intorno per trovare nuovi compagni e la sua ricerca sembra concludersi positivamente quando si imbatte in Henry Alonso Longabaugh. Ne parliamo tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Alla fine dell'Ottocento, nell'immenso West americano, dove per chilometri e chilometri non c'è anima viva e la natura richiede uno sforzo fisico di resistenza non indifferente, la differenza la fa il cavallo che possiedi. Con una degna cavalcatura ci sono buone possibilità di riuscire a cavarsela, altrimenti l'happy ending non è così scontato. Possedere un buon cavallo diventa fondamentale, tanto da spingere i più disperati a rubarne uno. La seconda storia che incontriamo oggi a Destini Incrociati ha come protagonista un altro ragazzo, Henry Longabaugh, un altro adolescente pieno di ormoni ed energia che inizia la sua carriera rubando un cavallo. Il cavallo, però, fosse stato anche il più veloce del West, forse gli costa un po' troppo. 18 mesi di prigione, un'eternità per un ragazzo che si è appena affacciato sul Grand Canyon della vita e la sta contemplando dall'alto in tutto il suo splendore. Ma l'esperienza, come tutte le esperienze, gli lascia una traccia indelebile. Dal Sundance Ranch, dove ha rubato il cavallo, Henry decide di prendersi qualcos'altro. Un nome nuovo, Sundance Kid. Sundance Kid. Henry Alonso Longabaugh nasce vicino Philadelphia nella primavera del 1867, ultimo di cinque fratelli di una famiglia battista. Suo padre non ha molta fortuna con i soldi e il lavoro. La sua è una vita precaria e difficile. Sundance aveva due fratelli e due sorelle. Era una grande famiglia, senza tanti soldi. Josiah, il padre di Sundance, non ha mai avuto una vera professione. Era un contadino part-time, portava le barche nei canali. Cambiava spesso lavoro e paese insieme alla famiglia. Quasi ogni anno. Non hanno mai avuto una casa tutta loro o un appartamento. Giusto una camera in qualche brutto hotel. Il bisnipote di Sundance, Paul Ernst, conosce bene la storia del suo avo fuorilegge. Il bis bisnonno di Paul è uno dei fratelli di Sundance e oggi come oggi poter vantare una parentela con uno dei più famosi rapinatori di fine secolo può aggiungere una nota piccante alla piatta vita di un signore di mezza età del New Jersey. Quello che è certo è che invece la vita del piccolo Henry è tutt'altro che tranquilla a causa dell'instabilità delle loro condizioni. Perciò non è un caso che si allontani presto dalla famiglia. A 15 anni con un cugino salta su un treno che spera lo porti via dalle ristrettezze, dall'oppressione che avverte in famiglia e dalla cupezza paterna. Quando il viaggio termina, lo attende il destino di tutti i giovani cowboy di quell'epoca, un lavoro mal pagato e faticoso in un ranch qualsiasi. Quando a 19 anni Sundance Kid ruba il cavallo, la bravata non sembra neanche tanto grave a chi passa da anni tutte le sue infinite giornate a fianco di questi animali. In mezzo a tutti loro, come si fa a non considerarli anche un po' come propri? La prigione sembra insegnare qualcosa a Sundance, come ormai si fa chiamare, che decide di tornare a lavorare in un ranch dove resta fino a 25 anni. Solo che questa volta la misura è davvero colma e Kid ha raggiunto un'età in cui il richiamo di una vita più facile, di quella del ranchero, si fa più forte. Una genesi molto simile a quella di Butch Cassidy, se ci si pensa. Ma il vasto West accetta i suoi figli per come sono, anche se sono giovani puledri irrequieti. Dai cavalli, quindi, Sundance passa rapidamente ad attaccare il cavallo di ferro, come chiamavano il treno i Pelle Rossa. Nel 1892 viene sospettato di una rapina a un treno e poco dopo di aver attaccato una banca insieme a 5 uomini. Ma sono scorribande, scaramucce, preliminari in attesa dell'incontro che cambierà la sua vita. Nel 1896 Butch Cassidy ha da poco lasciato la prigione quando incontra Sundance, che ha solo un anno meno di lui. È facile diventare amico di un coetaneo, soprattutto se è gentile, simpatico e la pistola più veloce del West. E Sundance è veramente il migliore con la pistola, anche se non ha ancora mai ucciso nessuno. La leggenda vuole che Butch Cassidy e Sundance Kid fossero contro la violenza. Questo non vuol dire che fossero degli stinchi di santo e notoriamente alla loro banda è accaduto di uccidere uno sceriffo o due durante qualcuna delle loro fughe. Soprattutto Curry Logan, uno dei primi membri della banda, era noto per amare le sparatorie quasi quanto le prostitute dei bordelli. Harvey Logan was one of the key members of the Wild Bunch. Curry Logan è stato uno dei personaggi chiave del Mucchio Selvaggio, uno degli organizzatori di molte delle loro azioni, ma è stato notoriamente anche il vero violento, lo psicopatico del gruppo, quello che si voltava indietro per uccidere. Ma Butch e Sundance non amano le sparatorie, forse a causa dei loro caratteri, aperti, allegri, a loro modo anche affabili e generosi. La violenza, soprattutto quella gratuita che tanto sembra affascinare Curry Logan, semplicemente non è nelle loro corde. Quello che sembra interessare Butch è soprattutto un piano ben congeniato, un lavoro netto e veloce, e poi il ritorno a una vita apparentemente normale, per illudersi di non essere un vero fuorilegge. Ma sono solo piccole fuggevoli illusioni. Finiti i soldi, i ragazzi si rimettono in pista. La vita di Butch in New Mexico è un buon esempio dei cicli vitali della banda. A differenza di Jesse James, che facevano una rapina al mese, loro facevano un colpo e poi restavano fermi per anche un anno. Lavorando nei ranch, si toglievano di mezzo, spendevano il denaro e cercavano di non farsi prendere. La banda, con la nuova aggiunta di Sundance, mette a segno un nuovo colpo da maestro derubando gli stipendi dei minatori a Castle Gate, quasi senza sparare un colpo. E nel frattempo sta pensando al più grande colpo della loro carriera. Nel 1862 il presidente Abramo Lincoln sancisce la nascita di un'opera immensa. Una ferrovia che unisca il Midwest americano, fin lì raggiunto dalla ferrovia della Chicago e North Railway, con la costa occidentale e San Francisco, la Union Pacific Railway. Alla sua creazione lavorano migliaia di operai, la maggior parte dei quali irlandesi, che in 7 anni portano a termine la prima grande ferrovia transcontinentale degli Stati Uniti. Cosa c'è dunque di più ghiotto delle decine di treni portavalori che la attraversano? Le rapine ai treni alla fine dell'Ottocento non sono così infrequenti, ma si tratta di piccoli colpi messi a punto fra i passeggeri, dove il bottino è formato da qualche gioiellino di signore in lacrime e il portafoglio di gentiluomini non abituati alle rozze maniere dei fuorilegge. Butch e Sundance, invece, sono interessati al colpo grosso e in loro aiuto arriva un'idea esplosiva: la dinamite. Il 2 giugno del 1899 è ancora notte nel Wyoming, quando un funzionario della Union Pacific, di stanza sul treno in attesa nella piccola stazioncina di Willcock, sente bussare alla porta del vagone portavalori. Al suo rifiuto di aprire, il paesaggio si colora improvvisamente di un rosso fuoco e un fragore immenso è colpevole dell'enorme falla che si apre sul fianco del vagone. La banda di Butch ha imparato a usare la dinamite e anche piuttosto bene. Il funzionario riesce a salvarsi e gli uomini del mucchio selvaggio si impossessano dell'intero bottino, quasi $30,000. Immediatamente l'ingegnere Jones, responsabile del treno, invia un telegramma alla sede centrale. Dalla prima sezione del treno numero 1 nella stazione di Willcox. Il vagone è stato fatto saltare in aria, il contenuto rubato. Dopo la rapina al treno, il gruppo come al solito si separa. Da una parte Butch e Sundance, dall'altra i restanti membri. In realtà con Butch e Sundance c'è anche una donna, Etta Place. Sundance e Etta si incrociano probabilmente in Texas. Tutte le indicazioni ci dicono che lei fosse di lì. Forse è stata una maestra di scuola, forse una prostituta, è difficile saperlo. Neanche la storica Donna Ernst è riuscita a fare luce su uno dei protagonisti più misteriosi di questa storia. Di Etta si sa poco. La versione più plausibile è che lei e Sundance si siano incontrati in uno dei bordelli che normalmente la banda frequenta nei momenti di ricchezza, quando bere e spendere soldi con le ragazze sembra il sale della vita. Ma Etta, a differenza delle altre, non solo è molto più bella, ma anche un carisma e un fascino non comuni. È possibile che prima di mettersi con Sundance sia stata anche la ragazza di Butch. Ma nelle bande non era inusuale scambiarsi le donne. Tant'è vero che anche quando vive con Sundance, i tre continuano a vivere tutti insieme per anni. La naturalezza dei rapporti fra la donna e i due uomini è la protagonista di una delle scene più belle del mitico film del 1969 che George Roy Hill fece sulla storia di Butch Cassidy e Sundance Kid, con protagonisti Paul Newman e Robert Redford. Ma torniamo ai nostri protagonisti. Ormai è il 1900. Il nuovo secolo non si adatta al West. O forse è il West che non riesce a sintonizzarsi con la modernità. Un mondo fatto di cavalli, bevute nel saloon, ingenue rapine alle banche di paese, poco a che fare con la nuova tecnologia delle truppe di cercatori di taglie e professionisti armati di mitragliatrice. E con i nuovi mezzi di telecomunicazione, come il telegrafo, che nello spazio di un attimo riesce a comunicare sia dove è avvenuto un colpo, sia soprattutto la posizione dei banditi. Ma quello che va scomparendo è soprattutto il senso della vita di frontiera, dell'avventura per il gusto dell'avventura. E per gente come Butch e Sundance questo significa la scomparsa della vita stessa. Con il nuovo secolo i due si rendono conto che la parabola dei fuorilegge sta per concludersi. I loro compagni si perdono. Qualcuno rimane ucciso durante nuove rapine, qualcuno finisce in prigione. La fine si sa, non è mai bella da testimoniare. Butch decide di giocare pulito una volta tanto e, sperando nell'amnistia, cerca di mettersi in contatto con il governatore dello Utah, Heber Wells, per trovare un accordo ed evitare l'impiccagione. In fondo lui e Sundance non hanno mai ucciso nessuno, questo vorrà pur dire qualcosa, ma il tentativo fallisce. E il cerchio si chiude. L'ultimo atto è la decisione di testimoniare quello che è stato. I superstiti del Wild Bunch, il mucchio selvaggio, che negli anni si è costruito una fama nel mondo dei fuorilegge, si ritrovano a Fort Worth, nel Texas, nello studio di John Schwartz. È l'inizio del 1901. Davanti all'obiettivo di una macchina fotografica, Butch Cassidy, Sundance Kid, Ben Kilpatrick, Harvey Kid Curry Logan e Will News Carver sembrano onesti commercianti. Gentiluomini con indosso la bombetta e il panciotto da cui spunta la catena dell'orologio. E forse, chissà, se le circostanze fossero state diverse, avrebbero davvero potuto essere persone oneste. I ain't being funny. I ain't got the breaks. I ain't got the aces. I ain't got the stakes. If only. I ain't got the nerve, I ain't got the makings of... Destini incrociati. Con l'avvento del XX secolo, l'avventura dei fuorilegge Butch Cassidy e Sundance Kid nel vecchio West si conclude. Il Wild Bunch, il mucchio selvaggio, la banda con la quale hanno messo a segno alcune delle rapine più spettacolari dell'epoca, si sta dissolvendo sotto i colpi degli agenti dell'agenzia Pinkerton e soprattutto dell'avanzare della modernità, che sembra voler stanare tutti quelli che ancora vibrano di fronte alla vita avventurosa, al riposo accanto a un falò e al Grand Canyon, rifugio e madre affettuosa di tutti i fuorilegge. Il fallimento delle trattative per ottenere l'amnistia non raffredda il desiderio di Butch Cassidy e di Sundance Kid di ritornare a una vita normale. E se questo non è possibile ottenerlo negli Stati Uniti, vuol dire che i due cercheranno un altro posto dove ricominciare da capo, e la scelta cade sull'Argentina. La prima tappa del loro viaggio verso una vita nuova è però New York. Nel febbraio del 1901, Sundance Kid e Etta Place si registrano come il signore e la signora Henry Place nella pensione della signora Taylor. Di lì a poco li raggiunge Butch, presentato come il fratello di Etta. Del soggiorno newyorkese rimane una foto che ritrae Sundance con a fianco una bellissima Etta e una ricevuta di un acquisto da Tiffany, firmata da Butch. Di lì a pochi giorni i tre salgono su di un battello a vapore che li porta in Argentina. Why did Butch and Sundance go off to Argentina? Come mai Butch e Sundance scelgono l'Argentina? Beh, oggi ci sembra uno strano posto dove andare, ma a quei tempi era un posto abbastanza rinomato per le sue mandrie e per questo esisteva un grande scambio tra mandriani del West e quelli argentini. Era considerato un luogo di opportunità. Venivano pubblicati annunci pubblicitari della compagnia ferroviaria argentina che prometteva terre gratis a chi si voleva insediare lì. Sono tante le ragioni per cui decisero di concludere la loro odissea in quel paese. Il trio acquista un ranch vicino a Cholila, nella provincia di Chubut, con 800 capi di bestiame. Per qualche anno conducono una vita felice. Stringono amicizia con i vicini, partecipano alle fiestas del paese. È qualcosa di molto vicino a quello che avevano sempre desiderato. Anche in questo caso esiste una fotografia. Butch, Sundance ed Etta sono davanti alla casa di legno dove vivono. Sembra un gruppo di famiglia sereno, realizzato, accanto un cane. Una vita normale, come sottolinea la storica Donna Ernst. A Cholila avevano una casa con quattro stanze, molto confortevole, completa di tutto, compresi i quadri sui muri e le lampade di ottone. Etta era una brava donna di casa, la teneva pulita e profumata. Ma dura poco. Sundance e Butch vengono riconosciuti. E visto che una taglia pende ancora sulle loro teste, devono abbandonare la tranquillità della vita al ranch e tornare alla vita di prima. Questa volta, in assenza della banda del mucchio selvaggio, devono trovare dei nuovi compagni per le loro scorribande. Di tanto in tanto qualche bandito argentino si unisce a loro, ma la vera colonna che si aggiunge come partner è proprio Etta, che si rivela un'abile pistolera. In breve il trio si fa conoscere in Sud America come Los Bandidos Yankees, i banditi Yankee. Ma dopo qualche anno, Etta non ne può più di questa vita. Dopo aver conosciuto le delizie del ranch, le rapine non regalano lo stesso piacere. D'accordo con Sundance, nel 1906 si fa riaccompagnare negli Stati Uniti. Ma lui non si ferma a lungo. Sa che gli uomini di Pinkerton gli stanno ancora addosso e per questo torna di nuovo in Sud America, dove lo aspetta Butch, che ha in mente un nuovo programma. Questa volta la destinazione è la Bolivia, paese ancora più remoto e poco conosciuto dell'Argentina. In Bolivia i due tentano di nuovo di rientrare nella vita normale dopo un periodo di banditismo, arrivando persino a lavorare come guardie incaricate di salvaguardare le paghe dei minatori. Ironia della sorte, se si considera che fino a poco tempo prima le paghe le rubavano. Eppure, chi li conobbe in quel periodo ricorda soprattutto Butch come un uomo eccezionalmente piacevole, con un ottimo linguaggio, perfino colto. Una persona davvero formidabile. Nel lunare paesaggio delle Ande boliviane, popolato solo dai lama, Bach e Sundance credono di trovare quell'anonimato che gli permette di ricostruirsi un futuro. Ma la tentazione e la mancanza di soldi è troppo forte. Il 3 novembre 1908, un convoglio di muli che trasporta le paghe della miniera di Aramaio viene attaccato da due banditi mascherati, ma con uno spiccato accento americano. Dopo la rapina, i due si rifugiano nel villaggio di San Vicente, dove però vengono denunciati da un sospettoso albergatore. Mentre i due banditi stanno consumando un piatto di sardine insieme a un boccale di birra, le guardie armate fanno irruzione nel piccolo albergo con le pistole spianate. Nella breve sparatoria, forse durò 15 minuti, i soldati sentirono come se qualcosa venisse infranta e poi il silenzio. Quando la mattina dopo entrarono nell'abitazione, trovarono i corpi di Bach e di Sundance. Questa volta è proprio la fine. Nell'inchiesta voluta dal governo boliviano risultò che Sundays era morto per una pallottola in fronte, mentre Bach aveva una pallottola nella tempia. Per questo conclusero che Bach abbia sparato prima a Sundays e poi a se stesso. Infatti, una seconda ricerca dimostrò che la pallottola nella fronte di Sundays venisse dal caricatore della pistola di Bach. L'ipotesi dunque è che, visto che erano feriti, soli e circondati, Bach abbia scelto un omicidio-suicidio. Come si conviene nelle migliori leggende, anche la storia di Bach Cassidy e Sundance Kid non sembra concludersi con una sparatoria a San Vicente in Bolivia. Secondo molte testimonianze, i due americani uccisi non erano i nostri eroi e soprattutto altre testimonianze raccontano che Bach e Cassidy siano tornati negli Stati Uniti, dove sono morti intorno agli anni 30. Fra queste testimonianze, la più importante è quella della sorella di Bach, Lula. La mia bisbisnonna Lula era una persona onesta. Era molto religiosa. La religione mormone era importante per lei, così come lo era dire sempre la verità. Personalmente credo che abbia detto la verità quando disse che Bach era tornato a casa. Non credo che avesse niente da guadagnare dicendo che era morto in Sud America o che era tornato a casa. In entrambi i casi non ne avrebbe tratto alcun beneficio. La verità non si saprà mai, ma non è sicuramente l'aura di mistero che circonda la morte di Bach Cassidy e Sundance Kid ad avere creato la loro leggenda, quanto il fatto di essere stati gli ultimi simboli di un'epoca in cui l'avventura era ancora una cosa inebriante e temeraria. Un concetto che Robert Redford, che nel famoso film di George Roy Hill ha interpretato Sundance Kid, ha perfettamente illustrato in un documentario del National Geographic in cui parla del sentiero dei fuorilegge. Mentre la tecnologia ci trascina senza fine verso il futuro, io mi ritrovo perversamente a interessarmi di più al passato. Perché è come se avessimo perduto qualcosa, qualcosa di vitale, qualcosa che ha a che fare con l'individuo e la passione. Forse è per questo che tendiamo a vedere i fuorilegge del West, giusto o sbagliato che sia, come figure romantiche. I reach out my arms, up above.